1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags. I 50 sono anni di estremo benessere e di grandi crescite economiche, derivata da un'altra vittoria in una guerra che non doveva affrontare la ricostruzione, visto che non si era combattuta in suolo americano. Furono gli anni del successo dell'American Way of Life, delle villette con giardino alle periferie della città, da raggiungere in automobile e da riempire con ogni comodità prodotta dall'industria americana. Furono gli anni del boom dei grandi centri commerciali e soprattutto gli anni della televisione, che rivoluzionò l'intrattenimento familiare per sempre. L'aumento del benessere per la classe media aprì la possibilità di mandare i figli all'università invece di farli entrare direttamente nel mondo del lavoro. Il college diventerà il loro mondo, il centro della vita sociale e culturale. I giovani erano stanchi delle consuetudini, del grigiore dell'abbigliamento, delle obsolete relazioni sociali, di essere considerati dei piccoli adulti. Nelle scuole si stabiliscono nuovi codici d'abbigliamento, nuove relazioni sociali. Lo stile diventa essenziale. Un oggetto come una moto, un giubbotto, una spilla o un taglio di capelli assume un importante valore comunicativo, un segno di appartenenza ad un gruppo. I giovani, avendo soldi e tempo per spenderli, diventano per la prima volta nella storia un soggetto sociale ben definito, facile bersaglio della propaganda commerciale che inculca loro il piacere del consumo. Uno dei prodotti che i giovani consumarono di più fu la musica, grazie ai nuovi modelli di giradischi economici e all'invenzione della radio portatile a transistor. La musica entra a far parte della quotidianità dei ragazzi, diventando non solo un passatempo, ma un elemento essenziale del tempo libero. Questi giovani, figli della classe media bianca, ascoltavano prevalentemente musica nera, il rhythm and blues, visto che era impossibile mantenere la segregazione sulle onde radio. In questi anni, l'industria dello spettacolo inizia a produrre nuove forme di intrattenimento pensate appositamente per i giovani. La televisione offre gli show di Ed Sullivan, Jackie Gleason, Steve Allen e American Bandstand, il primo programma dedicato integralmente al rock and roll trasmesso a livello nazionale. In onda dal lunedì al venerdì, Bandstand mostrava un centinaio di ragazzi ballare al suono dei successi del momento. La moda del rock and roll non sfuggì all'industria di Hollywood, che iniziò una serie di B-movies con i protagonisti della scena. Ad aprire il filone ci penserà lo specialista del genere Sam Katzman nel 55 con Rock Around the Clock, con Alan Freed, Billy Haley e i Platters. Il film ebbe un successo incredibile fra i giovani. Non tardarono ad arrivare Don't Knock the Rock, Shake, Rattle and Roll e Go Johnny Go, con il pubblico in visibilio per i propri idoli in azione sul grande schermo. Nel 1956 la Fox è la prima major a interessarsi al rock, producendo The Girl Can't Help It, con i numeri musicali di Little Richard, Jane Vincent e Eddie Cochran. Il ricco botteghino del film convinse la Fox a mettere sotto contratto niente poco di meno che il re. Il cinema, inoltre, darà vita ai nuovi simboli della ribellione giovanile, incarnata dai volti sfacciati di Marlon Brando e James Dean. Anche Broadway si adegua ai gusti del momento con il capolavoro West Side Story, con le musiche di Leonard Bernstein. L'opera, una rielaborazione del Romeo e Giulietta di Shakespeare, affronta temi come l'immigrazione, l'integrazione razziale, l'amore e la violenza minorile attraverso la guerra fra le due gang, gli Shark, portoricani, e i Jets, di ragazzi bianchi. Ma gli anni 50 sono anche gli anni dell'aumento delle tensioni della guerra fredda, con la netta separazione fra paesi appartenenti alla NATO e quelli del Patto di Varsavia, della guerra di Corea e della paranoia per la bomba H, del timore che la distruzione del mondo possa avvenire da un momento all'altro solo pulsando un bottone. Saranno gli anni del terrore rosso, di McCarthy e della sua caccia alle streghe, gli anni della crescita di potere dell'FBI, dirette da quel maniaco paranoico anticomunista di Hoover. Del programma Contempro, iniziato nel 1956, con l'obiettivo di sorvegliare, spiare e smantellare qualsiasi organizzazione considerata sovversiva. E praticamente lo erano tutte. Saranno gli anni della spietata concorrenza fra i servizi segreti russi del KGB e quelli della CIA. L'agenzia americana di spionaggio che aveva ottenuto il suo primo successo pilotando le elezioni politiche francesi e quelle italiane del 48 e che negli anni a venire farà più danni della grandine. Gli anni nei quali il rifiuto di Rosa Parks a cedere il posto sull'autobus a un bianco fa nascere il movimento dei diritti civili cappeggiato dai metodi non violenti del reverendo King. Gli anni nei quali scrittori, poeti, leader politici afroamericani rivendicano l'orgoglio nero. Gli anni delle rivolte nere al sud e della lingua affilata di Malcolm X che incita i fratelli all'autodifesa. E... I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked. Si autodefinirono come poeti in una terra di filistei. For an angry fix. Uomini alla ricerca del proprio destino spirituale, prima che materiale. Erano dei rivoluzionari esistenziali, oltre che artistici, con un'identificazione totale fra arte e vita vissuta. Erano sperimentatori in cerca della libertà estrema attraverso l'uso delle droghe come mezzo di espansione della coscienza. Si interessavano alle religioni orientali ed erano fanatici del jazz, del bebop in particolare, applicando la lezione dei boppers nel ritmo, nella metrica e nelle lunghezze delle loro composizioni. Il loro nucleo si era formato negli anni 40 a New York, attorno alla Columbia University. C'era Ginsberg, Kerouac, Burroughs, Corso e Orlowski, ai quali si affiancarono i californiani Ferlinghetti, Snyder e Kaufman. Nel 52 si spostarono a San Francisco e grazie alla libreria City Lights di Ferlinghetti videro pubblicate le loro opere principali, fra le quali ovviamente il romanzo simbolo, Sulla strada di Kerouac, che getterà il seme della controcultura del decennio successivo. Un giornalista del New York Times li battezza in un suo articolo intitolato This is the Beat Generation. Il termine beat viene dal gergo jazzistico to feel beat, sentirsi giù, essere svuotati d'energia. I beatniks usciranno allo scoperto il 13 ottobre del 1955 con il reading di questa poesia di Allen Ginsberg, Owl, Urlo, ispirata e scritta sotto l'effetto del peyote, un quadro agghiacciante dell'altra America. Inutile dire che fece scandalo, tanto scandalo. Gli esponenti della Beat Generation avranno un effetto dirompente sui giovani e sulle istituzioni. Il loro anticonformismo rappresenta il rifiuto poetico all'omologazione della società di consumo. Un secco no all'American Way of Life. Il 1950 è un anno fondamentale per il rock. La casa Fender produce la prima chitarra elettrica di corpo solido con un pick-up nel ponte. La chiamano Fender Esquire. L'anno dopo esce una nuova versione di questa chitarra alla quale viene aggiunto un pick-up. Avrebbero voluto chiamarla Broadcaster, ma la casa Gretsch aveva già una batteria con questo nome, così decisero di chiamarla Fender Telecaster. Con un aspetto industriale e un deciso suono metallico e brillante, sarà una delle chitarre più usate nel rock. La lista è pressoché infinita. Muddy Waters, George Harrison, Keith Richards, Eric Clapton, Pete Townshend, Syd Barrett, Jimmy Page, Jeff Beck, Bob Dylan. Nel 1952, viste le vendite della Telecaster, la casa Gibson, con la collaborazione del chitarrista Les Paul, inizia a produrre una chitarra dal corpo solido che doveva superare in qualità e in estetica la Fender. Il risultato fu la Gibson Les Paul, uno strumento più caro e pesante della Fender, con un'estetica molto elegante e un suono caldo e corposo. Fra i tanti guitar hero che l'hanno suonata, ricordiamo Chuck Berry, Jimi Hendrix, Jeff Beck, Keith Richards, Eric Clapton, Mike Bloomfield e il mitico Duane Allman. Nel 1954 la Fender mette in vendita un'evoluzione della Telecaster. La chiameranno Stratocaster e diventerà con gli anni il modello di chitarra più usato al mondo. Ha un disegno più ergonomico e un'estetica meno industriale della sorella maggiore. In più ha un ponte di tremolo che permette il vibrato e tre pick-up per un suono più dolce e compatto della Telecaster. La Stratocaster l'hanno suonata praticamente tutti, meno Roger McGuinn dei Byrds. Nasceranno altre ottime chitarre come la Gretsch o la Rickenbacker, ma Fender e Gibson saranno le indiscusse regine del rock. And I rolled a night, tumbling a night, cried the whole night long. Nel febbraio del 1950, Muddy Waters interpreta alla sua maniera un classico del blues del Delta, registrato per la prima volta nel 29 da Ambone Willie Newbern. Questo è l'ultimo disco dell'etichetta Aristocrats. Da lì a pochi giorni passerà a chiamarsi Chess Records, la casa discografica che farà conoscere il blues di Chicago al mondo intero. La versione di Waters sarà coverizzata dai Cream nel loro album di debutto, dagli Yardbirds con il nome di Drinking Muddy Waters, da Johnny Winter e dai grandissimi Ken and Heath. Questa è la versione originale di Rolling and Tumbling. Cried the whole night long. Well, I rolled around town, cried the whole night long. Well, I woke up this morning, didn't know right from wrong. Before I left that town, well, I told my baby before I left that town. Well, don't you let nobody tell my belt out. Yeah. was a diving dove. Well, if the river was whiskey, I was a diving dove. Well, I would dive to the bottom, there would I. Could have had a legion this very old same day. Well, I could have had a religion this very old same day. Well, now whiskey and women would not let me pray. Degli anni 20 avevano portato a Chicago una valanga di afroamericani dagli stati meridionali, in particolare della zona del delta del Mississippi. Vennero assegnati loro i quartieri più fatiscenti, quelli della zona sud-ovest della città. Parecchi bluesmen iniziarono a suonare nel mercato di Maxwell Street, il mercato all'aperto più grande d'America, dove si vendeva di tutto, nuovo o usato, legale o illegale. Gli stessi commercianti, per attirare i clienti, fornivano l'elettricità per amplificare gli artisti. In poco tempo divenne il palcoscenico ufficiale del blues e tappa obbligata per ogni bluesman che veniva in città. Da qui sono passati praticamente tutti i massimi esponenti del blues moderno. L'influenza reciproca fra gli artisti locali e i forestieri produrrà una fusione dal sound caratteristico, il blues di Chicago. Se Maxwell Street è il luogo dove è nato il blues moderno, l'etichetta discografica che cattura questo sound vibrante e lo fa conoscere al mondo intero è la Chess Records. Phil e Leonard Chess sono due fratelli immigrati polacchi, proprietari nel South Side del Club Mocambo, un locale dove si suona musica nera. Leonard, convinto dell'enorme potenzialità del rhythm and blues, entra come socio nella casa discografica Aristocrats. Riesce a convincere suo fratello Phil a comprare l'intera società. Così, nel giugno del 50, esce il primo disco di Gene Simmons su etichetta Chess. Il contributo della Chess alla musica è fondamentale. Qui hanno registrato i grandi nomi del blues come Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter, Sonny Boy Williamson, John Lee Hooker e Elmore James. Ha portato alla scena doo-wop gruppi come i Flamingos o i Moongloves, ma soprattutto ha pubblicato le opere di due dei musicisti più influenti del rock and roll, Bo Diddley e Chuck Berry. Il secondo singolo dell'etichetta è con uno dei loro artisti di punta, Muddy Waters. Le parole del titolo della canzone si riferiscono al proverbio «Una pietra rotolante non raccoglie muschio». Il brano servirà di ispirazione per il nome di una famosa rivista musicale e di un gruppo inglese che dominerà la scena dei 60 e 70. Questa è Muddy Waters, Rolling Stone. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women feel.

We're gonna roll. We're gonna rock. We're gonna roll. We're gonna rock. We're gonna roll. We're gonna rock this morning just to save my soul. Lester Hill era scappato di casa con soli 14 anni, destinazione Memphis, dove lavora come sguattero per una ricca famiglia. Svolge altri lavori saltuari prima di dedicarsi nei primi anni 40 alla musica. Lavora come session man, disc jockey e si esibisce come una one man band. Canta, suona la chitarra, l'armonica e il tamburo, ovviamente tutto da solo. In poco tempo diventa l'attrazione principale di Handy Park su Beale Street, il cuore pulsante di musica della città. Il suo soprannome, Joe Lewis, risale a una vittoria in una lite giovanile. Purtroppo non sapremo mai cosa avrebbe potuto fare se il tetano non l'avesse mandato a suonare nell'aldilà troppo presto. Nel luglio del 1950 viene registrata una delle prestazioni chitarristiche più fragorose, eccessive e distorte mai sentite, precursore di un certo metallo pesante degli anni 70. Lui è Joe Lewis e questa è la devastante Boogie in the Park! Winston comincia fin da bambina a cantare nella chiesa metodista di Portsmouth, in Virginia. My baby just cut out and now I've got the blues and I'm rocking. Quando è adolescente si ribella all'autorità paterna e inizia a suonare nei nightclubs. La sua ispirazione sono le grandi cantanti jazz, Dinah Washington, Sarah Vaughan e Billie Holiday. A 17 anni scappa di casa con il trombettista Jimmy Brown, che presto sposerà. La coppia si esibisce nei bar e locali notturni come Brown & Brown, ma Ruth scopre presto che Jimmy è già sposato e lo manda al diavolo. Per un periodo suona nella band di Lucky Millinder. Il band leader però, dopo un'esibizione a Washington, la licenzia per aver offerto un giro di bevute ai membri della band. Per ripagarsi il viaggio verso Portsmouth, suona al Crystal Caverns, dove viene notata dal DJ del programma Voice of America. But he's got to come back home to get his homemade fuzz. Right here. Willie Sconover viene colpito dalla voce della cantante e consiglia ai boss dell'Atlantic, i fratelli Ertegun, di metterla sotto contratto. Nel 49 ottiene il primo successo dell'etichetta con la ballata So Long. Qualche mese più tardi, nel settembre del 50, registra questo brano che sarà numero uno per 11 settimane nella classifica di Rhythm and Blues. Lei è Ruth Brown e questa è la ritmatissima Teardrops from My Heart. Every time it rains, I think of you, and that's the time I feel so blue. When the rain starts to fall in, my love comes tumbling down, and it's raining teardrops from my eyes. Well, if you see clouds here in my Hai sentito quel cioccolato bianco? Dice che Elvis ha copiato il modo di ballare da Winoni Harris. Va là, ti impatacca, te e quella cioccolata. Lo sanno tutti che Elvis ha imparato a ballare da Forrest Gump. A Chicago ci era arrivato in cerca di fortuna come tantissimi altri. Suonava per strada e dormiva in una cassa da imballaggio sotto la sopraelevata del treno. She said, I'm so glad I'm living. I cried, woo, darling, and I'm so glad you mine. Un giorno il produttore Lester Merrus lo vide suonare e lo invitò a una festa a casa di Tampa Red. She loved me right. She let me lay down in her loving arms all night. She cried. Al party era presente la crema della scuderia di Merrus, Big Bill Bronzy, Lonnie Johnson e Lil Green. She said, I'm so glad I'm living. I cried, woo, child, and I'm so glad you're mine. La sua performance alla festa fu tanto convincente da garantirgli un contratto discografico. È così che inizia la storia discografica del bluesman preferito da Elvis. Il re registrerà tre brani di Big Boy. Una di queste è My Baby Left Me. Negli anni 50 ebbe un enorme successo un genere di gospel molto ritmico, che potremmo definire come rhythm and gospel, ma che diventerà famoso anni più tardi con il nome di doo-wop. Era una modernizzazione del gospel che recuperava l'eredità di Mahalia Jackson, Sister Rosetta Tharpe e il crossover fra musica bianca e nera di Nat King Cole. Oh. I nuovi gruppi erano un'evoluzione dei Barbershop Quartet, i ragazzi che cantavano senza strumentazione per intrattenere i clienti in coda dal barbiere. I precursori del genere sono i leggendari Ink Spot e i Mills Brothers, molto apprezzati anche dal pubblico bianco durante gli anni 30 e 40. Questi due gruppi stabilirono la classica formazione a quartetto con basso, tenore, tenore alto e baritono. I Mills Brothers, un ex barbershop quartet dell'Ohio, nonostante fosse accompagnato solo dalla chitarra, suonava come un'orchestra. I componenti della band imitavano con la voce il suono di tromba, tuba e trombone. Il successo di questi pionieri avrà un'influenza notevole. Nelle grandi città come Los Angeles o quelle del nord-est come Baltimore, Philadelphia o New York, tanti gruppetti di ragazzi si riuniscono agli angoli delle strade dei loro quartieri. Si divertono ad armonizzare, solo con l'uso della voce, canzoni famose o pezzi propri. I testi, semplici e accessibili a tutti, parlano dei temi più cari degli adolescenti, l'amore e i problemi quotidiani. La voce del solista era adornata con parole onomatopeiche che simulavano il suono degli strumenti e che darà origine al nome dello stile, il doo-wop. Ci fu un'autentica invasione di gruppi. Tanti nomi furono presi dall'ornitologia, come i Penguins, i Flamingos, i Cardinals, i Crows o i Ravens. Uno dei primi gruppi ad apparire in scena sono i Clovers, scoperti nel club di Washington. Con uno stile molto devoto agli Ink Spot, passarono all'Atlantic nonostante la reticenza di Ahmet Ertegun. Il boss della casa impone al gruppo un sound più ruvido e scrive per loro la sua prima canzone, Don't You Know I Love You. Grazie alla voce tinta di blues di Buddy Bailey e un innovativo assolo di sassofono, il brano riscosse un successo indescrivibile. Numero uno durante l'estate del 51, 21 settimane nella top 10 e 4 milioni di copie vendute. Loro sono i Clovers e questa la squisita Don't You Know I Love You. Non lo sai che ti amo? Can't you see what you're doing to me? Don't you know I love you, love you so? Don't you know I love you, love you so? Don't you know I love you so? And I'll never, never let you go. Don't you die. 88 è considerata per la stragrande maggioranza della critica come la prima canzone di rock and roll. Qualcuno potrebbe obiettare che se Hank Williams fosse vissuto qualche anno in più, forse l'avrebbe inventato lui da solo il rock and roll, ma con i se e con i ma la storia non si fa. Ike Turner e i suoi King of Rhythm sono in viaggio sulla loro Cadillac da Clarksville, Mississippi, verso Memphis, dove hanno in programma alcune registrazioni per Sam Phillips. Durante il viaggio iniziano a parlare della macchina più veloce mai costruita, la Oldsmobile 88, conosciuta come Rocket 88. Ben presto diventa il testo di una canzone che avrà come base una cover che faceva la band, il Cadillac Boogie di Jimmy Liggins. I love you, baby, don't want nobody else. Play your horn, Raymond, go! Nel tragitto verso Memphis bucano una ruota. Cercando di prendere quella di scorta, fanno cadere l'amplificatore del chitarrista Willie Kiffert. Il woofer è andato. Arrivati a destinazione, Sam Phillips riempie l'amplificatore di carta da imballaggio. Questo rimedio fai da te darà alla chitarra un effetto rudimentale di distorsione, un sound gracchiante che piacque alla band. Il disco non sarà a nome di Ike Turner perché Phillips aveva per lui in mente altre registrazioni. Uscirà per la Chess Records a nome del saxofonista e cantante della band, Jackie Braxton, accompagnato dai suoi Delta Cats. Questa è la loro mitica Rocket 88. Women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! We'll be right back. in my rocket and don't be late. Baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a feel. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Dominos sono un gruppo vocale famoso per aver ospitato Clegg Matt Feder, poi nei Drifters, e Jackie Wilson, poi star in solitario. La band è diretta con pugno di ferro dal leader Billy Ward, un ex militare con un gran talento per la musica. I membri del gruppo, oltre a essere mal pagati, erano soggetti a multe per ritardi alle prove o per scarpe poco lucide nei concerti. Furono i problemi interni causati da queste situazioni a privare del successo al quale parevano destinati. Nel maggio del 51 apportano una di quelle canzoni seminali che hanno contribuito alla nascita del rock and roll. Il pezzo rimase numero uno rhythm and blues per 14 settimane e nonostante fu bandito da molte radio, raggiunse il 17° posto nella lista pop. Fu canzone dell'anno 1951. Con i suoi testi spinti al limite per quell'America e un alto tasso di testosterone, la canzone ha aperto la via ad altri brani con contenuti sessualmente espliciti. Il protagonista si vanta della sua arte amatoriale, cita pure la ricetta per far impazzire una donna in 60 minuti. Se qualcuno vuole farsi un appunto, si mette all'ascolto. Loro sono i Dominos e questa la bollente 60-Minute Man. Of kissing, then you holler, please don't stop. Don't stop. There'll be 50 minutes teasing and 50 minutes squeezing and 50 minutes of blowing my top. If your man ain't treating you right, come up and see your dad. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man. Man, call him the loving man. I rock, roll all night long. I'm a 60-minute man. 60. Don't stop. There'll be 50 minutes of teasing and 50 minutes of squeezing and 50 minutes of blowing my top. Pop, pop, pop. If your old man ain't treating you right, come up and see old Dan. I rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man, oh yeah. Crawling Kingsnake, baby, and I rose my day. Uno degli uomini chiave per lo sviluppo del blues è The Hook, John Lee Hooker. You know my crawling Kingsnake, baby. Il suo boogie primitivo e ipnotico ha fatto scuola. Nel settembre del 51 aggiunge un altro tassello al suo inconfondibile stile. Wanna use for myself. Il brano è registrato con l'aiuto del fido chitarrista Eddie Kirkland. Il riff scarno ma efficace, l'incedere seducente, il battito del piede come unico elemento ritmico ne fanno un classico. Per una seduta gratuita di ipnosi, la mesmerica In the Mood. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I said, nighttime is the right time to be with the one you love. You know when night come, baby, God knows you so far away. I'm in the mood. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in the mood, in the mood. Baby, I'm in the mood for love. Mama told me to leave that gal alone, but my mama didn't know, God knows, gal was putting down. I'm in the mood. I'm in the mood, baby. Mood for love. I'm in the mood, I'm in the mood. Secondo la tradizione, il settimo figlio è destinato a diventare medico. È per questo motivo che viene battezzato come Doc Williams. Seguendo le orme del nonno e del padre, si appassiona al violino. bootlegs are doing wine, women and songs, just a picking and a singing, singing and a picking. Nei primi anni 40 è il leader dei Santa Fe Trail Raiders, una band che stava riscuotendo un buon successo in Georgia. Come in, Mr. Pope, let's hear you pick, huh? Nel 42 vengono invitati al Grand Ole Opry, che darà la svolta alla loro carriera. Per evitare confusione con un altro gruppo, Doc William and His Border Raiders, il presentatore del programma cambia il nome del gruppo. Il leader, per via dei suoi capelli ricci, sarà Curly Williams e la sua band, siccome veniva dalla Georgia, lo stato della pesca, i Georgia Peach Pickers. With all these tunes going through my head, up comes Johnny Bond with Put Me to Bed, just picking and singing, singing and picking. Sono i primi a suonare una steel guitar sul palco del programma e godranno di una notevole popolarità fino agli anni 50. Nel 51 sfornano questo scatenato antenato di puro rockabilly, Move in a Little Closer. We're moving a little closer, honey, won't you hold me tight? In a cuddle up to me, say that you'll be mine tonight. Because when you hold me, honey, everything seems alright. Yeah, I like the way you wiggle when you start to walk, the way that you giggle talking baby talk. I like the way that you roll your eyes, honey, don't you know you're driving me wild. Moving a little closer, honey, won't you hold my hand? Yeah, now tell me all your trouble, don't you know I'll understand. Will you be my loving honey, I'll be your loving man. Well, you see the stars are shining up in the heaven above. Saw breeze blowing me that you just my true love. So move in a little closer, it's you I'm thinking of. Yeah, I like the way you wiggle when you start to walk, the way that you giggle talking baby talk. I like the way that you roll your eyes, honey, don't you know you're driving me wild. Move in a little closer, honey, won't you hold my hand. Yeah, now tell me all your trouble, don't you know I'll understand. Say you'll be my loving honey, I'll be your loving man. Yeah, I'll be my loving honey, gonna be your loving man. E per stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco. La storia del rock, quella vera.